9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 26 di febbraio ancora da Oscar Giannino. Oggi ci occupiamo della sentenza della Suprema Corte, la Corte di Cassazione, sul caso Mills. È una sentenza che in punta di diritto fissa una data diversa per il compimento del reato di corruzione in atti giudiziari, per il quale è stato giudicato fino a terzo grado di giudizio, appunto, l'avvocato David Mills, che per anni è stato consulente estero dell'azienda del presidente del Consiglio, e fissando una data diversa per il compimento di quel reato, ovviamente respinge la tesi che era stata fatta propria dalla Procura di Milano, che aveva considerato la data della corruzione in relazione alla dazione, ai soldi, a quei centinaia di migliaia di euro che aveva ricevuto in prova, appunto, della sua corruzione, non alla data in cui, come aveva chiesto la Procura, per avere più tempo per celebrare il processo, l'avvocato Mills ne aveva dato disposizioni, ma l'atto nel quale gli era stata data la piena disponibilità di quella somma. Può sembrare un particolare tecnico, lo è, ma da questi particolari tecnici discendono conseguenze molto rilevanti, perché ovviamente significa, assumendo la versione definitiva, l'interpretazione definitiva della circostanza temporale del compimento del reato fatta propria dalla Corte di Cassazione, l'avvocato David Mills è prescritto, cioè i 10 anni dal compimento di quel reato sono finiti a novembre dell'anno del 2009, quindi la condanna 4 anni e 6 mesi che era stata irrogata nei confronti di Mills non ci sarà. A questo punto, di fronte a questo giudizio, si scatena l'ovvia ridda di interpretazioni contrastanti. Perché da una parte leggo alcuni titoli, titolo di Libero, il giornale diretto da Maurizio Belpietro: Silvio assolto, Travaglio fa appello, sentenza all'italiana su Mills, saranno prescritte le accuse al presidente che si sfoga schiaffo ai giudici, come è ovvio anche il procedimento relativo a Silvio Berlusconi, che faceva la parte del corruttore nell'impianto della procura, finirà prescritto e quindi tutto ciò che aveva animato gran parte delle polemiche su Lodo Alfano per il fatto di dover rispondere a quell'accusa nel processo cadrà. Titolo del giornale: processo e vittoria di Berlusconi, Mills è prescritto, la causa che non doveva nemmeno essere celebrata. Ecco, questa interpretazione, come vedremo, non è condivisa, ma il giornale di Feltri, con commento di Vittorio Feltri, dice: la causa non doveva essere nemmeno celebrata. Per colpire il cavaliere, la procura di Milano è ricorsa a un artificio che la Suprema Corte ha bocciato, la sinistra scornata dovrà inventarsi qualcos'altro. E oltre che commento di Feltri, pubblicazione di un articolo di Silvio Berlusconi tratto da un libro nel quale sostiene ovviamente di non avere la sua tesi, cioè di non avere mai conosciuto l'avvocato Mills, e il paradosso di un'accusa che graverebbe nei suoi confronti, nei confronti del Presidente del Consiglio, quando l'avvocato Mills ha testimoniato contro di lui e contro l'azienda del Presidente del Consiglio in due procedimenti. Titolo della Stampa: Mills il reato è prescritto, ma catenaccio, la Cassazione cancella la condanna, ma la corruzione c'è stata. E questo è il secondo filone, perché siccome nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione si conferma che nulla decade, anche se non ci sarà la pena, dalle conclusioni a cui era arrivato il procedimento, tanto è vero che l'avvocato ministro dovrà comunque ricompensare la Presidenza del Consiglio che si era costituita parte civile, la domanda che io faccio iniziale a tutti voi, pregandovi di intervenire al numero che conoscete, è: per voi questa pronuncia della Corte dà ragione a chi sostiene che il procedimento non ci doveva essere e il Presidente del Consiglio per l'ennesima volta è vittima di una persecuzione giudiziaria? Oppure, poiché cancella la condanna, ma resterà la conclusione del procedimento, resteranno alcune rilevanti pene accessorie, in realtà è una scappatoia con cui ci si è difesi da un processo la cui conclusione era di accusa per l'avvocato Mills e nei confronti di chi con lui aveva messo in atto il concorso in corruzione ed era corruttore, e cioè l'azienda del Presidente del Consiglio? Domanda aperta. Per ricostruire meglio la vicenda e per rappresentare i due punti di vista, vi presento gli ospiti di oggi. Innanzitutto Raffaella Calandra, validissima collega che qui per Radio 24 ha seguito puntualmente tutti i passaggi di questo procedimento. Buongiorno Raffaella. Buongiorno Oscar, a te e al nostro ascoltatore. E poi per i due punti di vista, anche se naturalmente la mia è una forzatura, me ne scuso con loro, ma per semplicità nei confronti di chi ci ascolta, ma comunque a nome dei loro rispettivi e rispettabilissimi punti di vista, innanzitutto Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, vi segnalo il suo ultimo libro, Se telefonando, che non parla della famosa canzone di Mina, ma Le intercettazioni che non leggerete mai più, ed è un libro veramente tutto da leggere. Buongiorno Barbacetto. Buongiorno, buongiorno a voi. E poi Stefano Zurlo, collega del giornale, segnalo anche un suo libro, La legge siamo noi, la casta della giustizia italiana. Buongiorno Zurlo. Buongiorno. Allora, io innanzitutto pregherei Raffaella di ricordarci un pochino le tappe di questo procedimento in un paio di minuti, e inizierei proprio con la voce dell'avvocato David Mills in una intervista che aveva rilasciato nello scorso autunno proprio a Raffaella Calandra. Ovviamente sarebbe assurdo, completamente illogico, se uno era condannato e l'altro assolto. In che senso? Sarebbe visto la natura del capo di accusa, cioè o tutte e due sono colpevoli o tutte e due sono innocenti. Non è possibile che uno sia colpevole e l'altro no. La tesi dell'avvocato Mills, così sintetizzata, ovviamente ogni estrapolazione da interviste più lunghe rischia sempre di non essere perfettamente fedele, però appare del tutto logica, cioè o siamo colpevoli insieme, visto che è un reato in concorso, o siamo innocenti insieme. Raffaella, dal tuo punto di vista, le lunghe tappe di questo procedimento, che esito hanno? Hanno un esito che conferma che la procura si inventa delle circostanze temporali per avere più tempo, e quindi in questo caso dà conferma alla tesi di chi dice c'è una persecuzione nei confronti del Presidente del Consiglio e delle sue aziende? Oppure invece, visto che l'avvocato Mills dice se siamo colpevoli lo siamo insieme, se siamo innocenti lo siamo insieme, è vero, non ci sarà la pena nei confronti dell'avvocato Mills, ma come dice la Cassazione restano le conclusioni, e in quel caso quindi difficile considerarli entrambi innocenti. Qual è la tua personale lettura, ricostruendo un pochino questo procedimento? Beh, innanzitutto, stando ai fatti, quello che Mills ci diceva in questa intervista ormai mesi fa, che era alla vigilia della sentenza della Corte d'Appello, è una sua opinione collegata alla natura stessa del reato che è stato contestato ad entrambi gli imputati, ossia sia a Mills che a Berlusconi, ossia il presunto corrotto e il presunto corruttore, cioè la tesi: se c'è un corrotto ci deve essere un corruttore. Quindi questo è il punto di partenza da cui matura, diciamo, quella considerazione di Mills. Quanto alle tappe dei processi, come tu stesso ricordavi, sono stati processi che hanno avuto fasi molto, molto lunghe, con alterne vicende intersecate con i dibattiti e le polemiche che ci sono state anche intorno ad alcune leggi che mano a mano sono state in discussione. Innanzitutto è un processo molto complesso, è un processo che ha avuto anche tecnicamente dei tempi lunghi dovuti a rogatorie, dovute alla necessità di sentire alcuni testimoni, ciascuno con delle proprie difficoltà alle proprie spalle. Per quanto riguarda poi il momento, diciamo, determinante di questo processo, è stato nel momento in cui, in virtù del lodo Alfano, i destini giudiziari da una parte di David Mills, dall'altra di Silvio Berlusconi, sono stati separati, per cui ricorderete sicuramente le polemiche che c'erano state intorno al primo collegio che è stato chiamato a pronunciarsi intorno alla vicenda Mills, ossia quello presieduto da Nicoletta Gandus, contro la quale anche i difensori del Premier avevano presentato un'istanza di ricusazione. Ebbene, in quel momento, nel momento in cui entrò in vigore il lodo Alfano, quel collegio, la decima sezione penale del Tribunale di Milano, andò avanti con il procedimento solo a carico di Mills, mentre fu stralciata appunto la posizione del Premier in attesa di una pronuncia della Consulta. Come tutti sappiamo, poi la Consulta ha bocciato il lodo Alfano, però a quel punto quel collegio era diventato incompatibile perché si era già pronunciato sul coimputato e quindi il processo è ricominciato per Berlusconi con altri giudici. Ora, i tempi dei processi sono ovviamente tempi dovuti alla difficoltà, alla delicatezza e anche a delle esigenze tecniche proprio del processo. La procura aveva stabilito una impostazione che ora andremo ovviamente a vedere quali saranno le motivazioni della Cassazione, ma che stando a quello che è il dispositivo sembra accogliere il quadro fatto ieri dal procuratore generale, quindi in sostanza sembra confermare l'ipotesi generale della Procura di Milano, cioè che una corruzione c'è stata, ma secondo il procuratore generale è da collocare, come tu ricordavi, all'11 novembre 99 e non al 29 febbraio 2000. Un cambiamento non secondario perché ovviamente fa scattare i termini di prescrizione, anche se ora bisognerà vedere se per la specifica vicenda della Premier il processo ricomincerà domani ed era stato sospeso proprio in attesa della pronuncia delle sezioni unite, anche questo elemento non secondario della Cassazione, considerando la sospensione che c'era stata proprio in virtù del lodo Alfano, che aveva portato ad un congelamento anche della prescrizione, a quando saranno calcolati i termini ultimi per Berlusconi, che grosso modo, secondo i primi calcoli che sono stati fatti ieri, dovrebbero terminare nella primavera 2011. Perfetto, allora ricapitolo ancora una volta. L'avvocato David Mills viene accusato rinviato a giudizio nell'ottobre 2006 per corruzione in atti giudiziari, perché l'accusa sostiene che avrebbe deposto il falso dietro appunto questa corruzione, avrebbe preso dei soldi, avrebbe deposto il falso in due procedimenti, quello Oliberian e quello sulle tangenti della Guardia di Finanza. Nel gennaio 2007 la prima ricusazione da parte della difesa, che però viene respinta perché la Cassazione respinge la ricusazione del giudice Paparella proposta dall'avvocato Ghedini. Poi ci sarà anche la seconda ricusazione, quella nei confronti del presidente del tribunale Nicoletta Gando. Si arriva a gennaio del 2008 e lì c'è il punto su cui si è espressa ieri la Corte di Cassazione, perché il Tribunale accoglie la tesi del Pubblico Ministero Milano Fabio De Pasquale, il quale in ordine a quando è stato compiuto quel reato propone che non sia il 1998 la data, come invece propone la difesa del Presidente del Consiglio, ma invece attraverso alcuni ragionamenti in ordine al fatto che il reato si compierebbe davvero quando si danno le prime disposizioni della somma, una volta che uno ce l'ha sul conto, dice no, il reato viene in realtà commesso nel 2000 e quindi non c'è prescrizione. Il Tribunale accoglie questa proposta del Pubblico Ministero, sulla quale ieri invece la Corte lo respinge, e così si arriva poi nel febbraio 2009 alla condanna, 4 anni e 6 mesi per David Mills, mentre Lodo Alfano sospende il processo al Premier, quello di David Mills andava avanti, e quindi il Tribunale, presieduto da Nicoletta Gandos, arriva alla condanna, mentre il processo al Premier riprende a dicembre. A questo punto, poiché la Corte di Cassazione non ha ieri in teoria e in pratica accolto quello che sosteneva nel gennaio 2008 l'avvocato Ghedini in ordine alla data di compimento del reato, e cioè il 1998, bisognerà aspettare un termine più avanzato e quindi con ogni probabilità esattamente il 2011 a cui faceva riferimento Raffaele Calandra, e quindi sostiene la procura, il procedimento su Berlusconi andrà avanti, come evidente, anche se ovviamente c'è la certezza che finisca in prescrizione. L'avvocato Ghedini oggi sul Corriere della Sera subito ribatte, ma neanche per idea, va sospeso immediatamente il processo al Cavaliere perché l'eventuale reato, ripropone l'avvocato Ghedini, dovrebbe essere retrodatato al 2008. Questo è il quadro, con un minimo di complessità, me ne rendo conto, per chi non ha seguito, ma capace di restituire a voi che ci ascoltate almeno gli elementi di fondo di questo procedimento. Ora apriamo il campo alle interpretazioni, cioè a come bisogna considerare, se bisogna chiudere il procedimento a Berlusconi subito, se in realtà poiché la condanna penale non c'è, quindi bisognerà considerarlo del tutto innocente e tanto più una prova di persecuzione nei confronti di Berlusconi questa circostanza delle date, oppure se al contrario vale la tesi opposta, no vabbè, il tempo ha sconfitto il procedimento e i tanti ostacoli frapposti al procedimento, ma intanto resta la conclusione e siccome resta per l'avvocato Mills, punto interrogativo, come e se non debba restare anche per il Presidente del Consiglio. Gianni Barbacetto, prego e dici qual è il tuo punto di vista. Il mio punto di vista naturalmente è quello dei fatti e i fatti sono molto semplici, io la semplificherei molto questa vicenda. C'è stato un processo per corruzione in atti giudiziari per aver pagato un testimone, questo processo è durato molto perché ci sono state dentro il processo e fuori dal processo molte frenate perché non si arrivasse a sentenza. Alla fine la Corte di Cassazione ha detto in maniera molto chiara che l'avvocato Mills non può essere prosciolto nel merito, ma che è solo prescritto perché è passato molto tempo. E perché è passato molto tempo? Ecco, l'unico elemento che aggiungerei è questo. Perché è prescritto questa cosa? Molto semplice, per effetto di una delle tante leggi ad personam volute da Silvio Berlusconi, e cioè per l'effetto della legge ex Cirielli. La corruzione in reati giudiziari si sarebbe prescritta dopo 15 anni, invece un'apposita legge fatta approvare da Berlusconi abbrevia i tempi di prescrizione, da 15 li porta a 10 e il gioco è fatto. Eccola qui la magia. Benissimo, opinione opposta o comunque diversa e distinta di Stefano Zurru. Ma la Cassazione ci dice soltanto che l'eventuale reato sarebbe avvenuto in una data e non in un'altra, come invece insisteva a dire la Procura di Milano, che ha rincorso in tutti i modi la condanna di Mills, che vuol dire poi appunto la condanna di Berlusconi. E a questo punto non c'è un accertamento definitivo di responsabilità, perché il gioco si chiude prima, si dice il tempo è scaduto, la partita è finita e poi l'eventuale risultato non lo sapremo mai perché appunto si è fischiato un attimo prima. Va anche detto che sì, Barbacetto dice si sono persi tempi e anni, ma farei notare una cosa molto curiosa, molto, come dire, divertente tra virgolette. Al signor Mills, all'avvocato Mills, sono stati celebrati tre gradi di giudizio, primo, secondo e Cassazione, nell'arco di un anno. Per questo parlavo di rincorsa, perché per arrivare a una condanna hanno fatto altro che il processo breve, hanno fatto il processo brevissimo, cioè con motivazioni sparate fuori come fosse un cannone nel giro di pochissime settimane, la fissazione dell'appello in tempi ultra rapidi, quando a Milano ci vogliono anni per passare dal primo al secondo grado, e poi il passaggio in Cassazione ulteriormente rapido. Se tutti i processi fossero così, noi avremmo una giustizia straordinaria. Ma nonostante questa straordinaria rincorsa, nonostante il tentativo di spostare in avanti la data dell'eventuale reato, la Cassazione ha fatto un ragionamento molto semplice e ha ricollocato i fatti come sarebbero avvenuti i fatti, ripeto. Poi se sia stato un reato oppure no, noi non lo sapremo mai in via definitiva. È vero, perché non mi voglio nascondere dietro sofisticati ragionamenti, che questo tipo di prescrizione non è ovviamente la prescrizione che interviene nel corso dell'inchiesta, quindi all'inizio al buio, è una prescrizione che interviene alla fine di un complesso interprocessuale. Quindi, come dire, si era scavato, si era andati avanti. Però questo è il dato di fatto, e la forma, in questo caso la forma non è un particolare banale, perché spessissimo a Milano in un modo o nell'altro si è arrivati a condanne su Berlusconi o intorno a Berlusconi o figure vicine a Berlusconi, tutte queste condanne per una ragione o per l'altra sono puntualmente cadute via via che si andava avanti, spesso in Cassazione. Buongiorno cari ascoltatori, stiamo parlando della sentenza della Corte di Cassazione ieri sui tempi di prescrizione del processo a David Mills, in cui era coimputato per concorso in corruzione e atti giudiziari Silvio Berlusconi. Abbiamo visto come la stampa italiana sia spaccata: c'è chi considera una vittoria di Berlusconi, c'è chi invece, cito tra gli altri gli editoriali a commento di Giuseppe D'Avanzo su Repubblica e sul Fatto di Peter Gomez, commenta diversamente. Leggo D'Avanzo. D'Avanzo dice: ora abbiamo la prova, David Mills è stato corrotto, questa è la sentenza della Cassazione, e se Mills è corrotto, sto procedendo nella lettura di D'Avanzo, il Presidente del Consiglio è il corruttore. Dal commento dell'editoriale di Peter Gomez in prima pagina sul Fatto, adesso lo dice anche la Corte di Cassazione, davvero il testimone inglese David Mills è stato corrotto dal Premier Silvio Berlusconi per mentire in tribunale, ma il Premier conta di farla franca con il solito sistema prescritto al momento giusto. Ora io faccio notare che se si contano gli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 procedimenti penali che dal 94 in avanti hanno interessato il Presidente del Consiglio, lo ricordo a chi ci ascolta per avere il quadro sempre preciso, che poi dà ragione in un caso a chi dice di persecuzione e nell'altro a chi dice invece no, quello è un birbante matricolato. Vediamo a che punto sono arrivate le conclusioni e come si sono poi concluse le vicende procedimentali che riguardavano il Presidente del Consiglio. 94, compravendita del cacciatore Lentini, quindi accusa falso in bilancio, prescrizione. 94, tangenti alla Guardia di Finanza, accusa al Presidente del Consiglio, corruzione, assoluzione. 93, Oliberia, il finanziamento illecito dei partiti, conclusione, prescrizione. 95, acquisto della casa di produzione Medusa, falso in bilancio, l'accusa, assoluzione. 95, acquisto di un'area adiacente a Macherio, accusa, frode fiscale, assoluzione. 97, Telesinco, quindi accusa, frode fiscale, assoluzione. 98, attentati di mafia, accusa, concorso in strage, archiviato, questo, archiviazione, la prima archiviazione. Sempre nel 98, caso SME, corruzione in atti giudiziari, prescrizione. 99, Oliberian, accusa, falso in bilancio, assoluzione, perché il fatto non è più previsto come reato. 99, Lodo Mondadori, accusa, corruzione in atti giudiziari, conclusione, prescrizione. 2003, Fininvest, accusa, frode fiscale, conclusione, prescrizione. 2004, Mediaset, accusa, frode fiscale, il processo è in corso. 2004, caso Mills, accusa, corruzione dei testimoni, il processo è in corso, e come vediamo è su questo che è intervenuta la Cassazione, finirà in prescrizione, quindi. 2007, Mediaset, appropriazione indebita e l'accusa, indagine preliminare conclusa. Questo è il quadro complessivo sul quale naturalmente ci si divide. Sentiamo le prime telefonate degli ascoltatori. Accidentaccio, non si riesce bene. Io devo scusarmi anche con gli ascoltatori perché stamattina abbiamo l'impianto degli SMS, cioè il numero 349-238-666, che non è in grado di darmi le vostre opinioni e quindi non riesco bene a... Secondo, Stefano da Brescia, ecco, pronto, pronto Stefano? Ci sei in linea, Stefano? Pronto? Stefano, prego, dica. Sì, allora, buongiorno a tutti. Allora, attualmente la prescrizione avviene dopo 10 anni. Una nuova legge che parlavano un po' di tempo fa avverrà dopo 2 anni. Uguale, verranno condannati soltanto i ladri di galline, i poveri cristi. Per fortuna che la legge è uguale per tutti. Basta. Pronto? Sì, per fortuna che la legge è uguale per tutti, un velo di ironia. Barbacetto, perché abbiamo questo ritorno in cuffia anche adesso per gli ospiti collegati telefonicamente? Oggi sono un po' di problemi tecnici. Sono effetti speciali. Ma sono gli effetti speciali? No, voglio dire, non credo. Non siamo al punto che ci intercettano anche per radio, sono già onde pubbliche. No, a me quello che colpisce è come sia possibile avere interpretazioni così contrastanti. Perché io naturalmente per la mia prima laurea in legge io mi fermo e dico, ma insomma c'è un'interpretazione sulle circostanze temporali, però non può non colpirmi il fatto che nella sentenza si dice restano tutte le cose che ci sono scritte su Mills. Ma infatti io ho notato molto imbarazzo oggi nei commenti di Feltri, di coloro che perché prendono, insomma, devono prendere una parte, devono difendere per motivi politici il Presidente del Consiglio, e per questo, pur con imbarazzo, devono un po' forzare. Noto l'imbarazzo, insomma, dei commentatori che per ragioni politiche devono difendere ad ogni costo, anche contro i fatti, il Presidente del Consiglio, ma i fatti sono molto semplici. La Corte di Cassazione, uno, riconosce che la corruzione c'è stata, due, non dice non posso condannare perché è passato troppo tempo. Ripeto, è passato troppo tempo per effetto non di chissà quali cose, ma per effetto di una legge ad personam fatta da Silvio Berlusconi, dal governo dalla maggioranza di centrodestra, e cioè la ex Cirielli. Comunque io mi chiedo, e chiedo alle persone intelligenti che sono costrette con imbarazzo a fare salti mortali, a fare complicatissimi ragionamenti su un anno prima, un anno dopo, 62 giorni prima, 62 giorni dopo, infatti sono molto semplici, sono chiari, sono questi. Mi chiedo, se un avvocato, se Romano Prodi avesse corrotto nella stessa maniera, avesse dato 600.000 dollari ad un avvocato per fargli fare falsa testimonianza e poi fosse stato prescritto, cosa direbbe Zurlo, cosa scriverebbe Feltri, ecco, questo mi chiedo. E comunque c'è una cosa molto semplice: se Berlusconi vuole togliere quest'ombra di dubbio che resta, rinuncia alla prescrizione lui. La prescrizione non è una cosa che Dio ti manda e che ti devi prendere per forza, è una cosa che scatta, ma a cui si può rinunciare. Berlusconi rinunci, faccia celebrare il suo processo senza fare nuove leggi, nuovi imbrogli, nuovi impicci, e si è risolto tutto. Naturalmente uno dei controargomenti è che proprio il lungo elenco di procedimenti conclusisi tutti come ho detto è la controprova invece dell'accanimento. Adesso sentiamo Zurlo per vedere come risponde a Barbacetto. Intanto ascoltiamo qualche altro anche ascoltatore. Filippo dalla provincia di Vicenza, prego Filippo, dica. Buongiorno, buongiorno Giannino, è un piacere. Senta, io più che dire una mia opinione volevo chiedere un chiarimento a lei e ai suoi ospiti. Io non ho capito molto bene da quello che leggo sui giornali e ho visto sui telegiornali di questo processo. Allora, il processo ha confermato che Mills è stato corrotto, ha ricevuto dei soldi, ma il fatto che a dare questi soldi sia stato Berlusconi è stato provato? Perché non ho capito bene se questo processo abbia dichiarato, abbia provato che a ricevere questi soldi, sì, che a dare questi soldi a Mills sia stato proprio Berlusconi, perché Mills prima mi pareva... Bene Filippo, chiarissima la sua domanda, facciamo subito rispondere come parte terza, perché la stiamo consultando come collega, diciamo, che ha seguito passo a passo il procedimento, Raffaella Calandra, in relazione a chi ha dato questi soldi all'avvocato Mills e come questa dazione comproverebbe nel procedimento l'accusa della procura, che cosa c'è negli atti, Raffaella? Allora, negli atti al momento ci sono le due motivazioni delle due sentenze di condanna per Mills, quelle di primo e quella di secondo grado. Ovviamente poi la responsabilità penale è strettamente personale, per cui il processo al premier è ancora in corso e quindi, diciamo, quel fronte è ancora aperto. Stando alle motivazioni, le motivazioni dicono che queste 600.000 dollari che sono stati diciamo versati sui conti di David Mills attraverso poi passaggi di vario tipo arriverebbero da un manager della Fininvest poi morto, Carlo Bernasconi, e il punto è appunto quello di stabilire se questa promessa di 600.000 dollari fatta da Carlo Bernasconi avveniva a nome di Mr. B, come scriveva David Mills nella famosa lettera, che è uno degli elementi più importanti considerati dall'accusa in questo processo, una lettera che è stata considerata una forma di confessione a firma di Mills della corruzione, oppure invece no. Le motivazioni della sentenza, sia di primo che di secondo grado, dicono che Mills mentì per coprire Berlusconi, però ovviamente il processo al premier è ancora aperto, quindi questo non lo possiamo ancora dire con certezza. Bene, Zurlo, una controreplica a Barbacetto che dice: ma voglio vedere come vanno avanti con questi argomenti. Ma sì, cioè nel senso che qua sembra quasi che si abbiano preso Berlusconi mentre passava una mazzetta a Mills, però un secondo prima arriva la sentenza che non si può andare avanti perché è prescritto sempre, perché Berlusconi ha modificato la legge, quindi come dire, c'è una colpevolezza plateale. Mi sembra che le cose stiano diversamente, senza alcun imbarazzo, lo dico, l'ho già detto prima, questa è una prescrizione, come dire, leggera, non è la prescrizione che arriva in fase di indagine al buio quando non si è fatto ancora nulla, non è certo una vicenda come dire edificante. Detto questo, però, la vicenda è molto contorta, molto complessa. Berlusconi dà tutta un'altra ricostruzione di quei soldi, la Fininvest dà un'altra ricostruzione, Mills soprattutto, che è quello che ci interessa, no? Dice che questi soldi provenivano dall'armatore, e il processo finisce un secondo prima che si arrivi a, un accertamento definitivo, e sottolineo definitivo, di responsabilità, per cui la condanna non c'è. Poi possiamo girarci intorno in tutti i modi, però faccio notare che è 15 anni che si gira sempre intorno a dire: ma questo processo si chiude con una soluzione, però insomma in qualche modo c'è una responsabilità di Berlusconi, quest'altro finisce prima ma c'è una responsabilità, e si ripete sempre la stessa cosa. E la procura, ripeto, ha rincorso in modo forsennato sul calendario questa vicenda per arrivare alla conclusione, e adesso ricomincerà col troncone di Berlusconi, perché già cominciano i calcoli e i conteggi. Allora il problema non è se Berlusconi deve accettare o non accettare la prescrizione, il problema è la posizione che ormai storicamente a Milano è sedimentata da 15 anni, per cui si spara sempre, come dire, munizioni e proiettili in quella direzione in tutti i modi possibili, affastellando processi e procedimenti di ogni tipo, perché siamo arrivati a 15, a 16, a 17, si sono persi i calcoli. E poi dobbiamo anche considerare tutte le altre accuse che piovono dalle altre procure, perché hai citato prima la vicenda di mafia, dove è archiviato per modo di dire, perché si archivia, poi arriva un altro pentito, si riapre e si ricomincia, e anzi col sistema dei vasi comunicanti le carte circolano da una procura all'altra, da un processo che si archivia se ne hanno quattro nuovi, perché questo è quello che sta succedendo. Esattamente. Allora, la domanda a Barbacetto su il singolare, per me è singolare che non do giudizi, avete sentito che non do giudizi nella vicenda, però mi è sempre sembrato un po' singolare l'atteggiamento di questo avvocato Mills. Anche qua facciamo due passi indietro: l'avvocato Mills ha cambiato più volte versione sulla storia che è centrale poi in tutto questo procedimento, cioè questi soldi da dove gli arrivano, chi glieli ha dati e perché. È vero che adesso resterà comunque agli atti che sono una dazione e che gli venivano da manager dell'azienda del Presidente del Consiglio, e quindi una prova di corruzione in atti giudiziari. Però l'avvocato Mills prima dice che gli vengono da una fonte, eccetera, eccetera. Poi gli arriva, siccome non voleva dividerli, questa è l'accusa che troverete circostanziata anche nell'articolo firmato da Silvio Berlusconi, tratto da una sua testimonianza pubblicato oggi dal giornale in prima pagina, del giornale diretto da Vittorio Feltri. Dopodiché a quel punto gli va addosso il fisco inglese. Il fisco inglese porta a casa da Mills una versione ulteriormente diversa. A quel punto i pubblici ministeri di Milano, Berlusconi scrive, gli piombano addosso in un drammatico interrogatorio di ore e ore e ore, ottengono da lui la versione per la quale quei soldi gli venivano via Bernasconi, il manager poi morto, e che quindi non può dire né sì né no, dalle aziende del Presidente del Consiglio. E su questa versione poi si incardina tutto il procedimento, tranne che poi Mills cambia di nuovo posizione. Allora, Barbacetto, l'opinione che ti sei fatto tu, che hai già spiegato come interpreti tutto il procedimento, come una prova provata e come un ostacolo alla giustizia, tutto ciò che il Presidente del Consiglio e i suoi difensori hanno messo in campo, per questo si arriva alla prescrizione. Ma in realtà questo David Mills, con sti atteggiamenti di volta gira di contrario della cosa, ma non ci fa un po' riflettere? Ma no, anche qui questo è un processo relativamente semplice, perché c'è la confessione dell'imputato praticamente, che poi dopo cambia. Come è normale, no? Uno, diciamo, se parla quando parla senza avere preoccupazioni sulle conseguenze di quello che dice la verità, dopodiché è costretto in qualche modo a cambiare opinione, a dire che aveva detto, no? Si rimangia la verità detta, perché di fronte alla legge italiana diventa imputato, è molto semplice. Ma diciamo la prima spiegazione che Mills fa, sia nella lettera ai suoi commercialisti, non aveva nessun motivo per mentire, avrebbe potuto dire qualunque altra cosa, no? Sia nell'unico interrogatorio che riescono a fargli nel 2004, dice testualmente: sono stato sentito più volte in indagine processi che riguardavano Silvio Berlusconi e il gruppo Fininvest, eppur non avendo mai detto il falso, ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. È in questo quadro che nell'autunno del 99 Carlo Bernasconi mi disse che Silvio Berlusconi, a titolo di riconoscenza per il modo in cui ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro. È molto semplice, su questa base i processi si fanno anche molto rapidamente. Ecco, adesso capiamo allora anche perché Zurlo dice ma insomma quanti processi e poi alla fine tutti andati con prescrizioni o con assoluzioni. Eh beh, certo, le prescrizioni si ottengono facendo delle leggi che diminuiscono con la mannaia i tempi di prescrizione. Le assoluzioni si ottengono pagando i testimoni come David Mills. David Mills perché è una cosa chiave? Perché questo processo è importante? Perché ci spiega non soltanto cosa è avvenuto in questo processo, cioè la corruzione del testimone, ma ci spiega cosa è avvenuto nel caso Oliberian e nel caso Guardia di Finanza, cioè in altri due processi che sono finiti come sono finiti, cioè con prescrizioni e assoluzioni, perché Berlusconi paga i testimoni, molto semplice. Ecco, questo. E allora a questo punto io dico, come mai c'è una persecuzione giudiziaria? Perché ci sono tanti processi, perché ce l'hanno su tanto con Berlusconi? Ce l'hanno su con Berlusconi perché Berlusconi fa tanti reati, o comunque perché secondo i magistrati d'accusa ci sono molte notizie di reato da verificare e poi dopo da andare a vedere nei processi se è colpevole o innocente. È questo persecuzione? No, perché negli Stati Uniti Clinton l'hanno rivoltato come un calzino. È normale che chi diventa centrale nella politica sia consentimi fare una breve domanda, perché abbiamo solo pochi minuti finali e bisogna fare un giro finale. Una brevissima a te. La pensi come la pensi? Mi senti che io non do giudizi, però te la senti di dire che comunque non ne verremo mai a capo? Cioè, tra chi la pensa come te e milioni di italiani che la pensano come te, mica pochi, e tanti procuratori che la pensano come te, che non mi sembra rilevante, e poi gli altri milioni di italiani che non la pensano così, ci è chiaro che non ne verremo mai a capo o secondo te ne verremo a capo? Risposta breve. No, non ne verremo mai a capo. Io ormai sono convinto che questa è una battaglia persa. Ma perché? Perché gli italiani non hanno imparato a distinguere la differenza tra piano giudiziario e piano politico civile. Va bene, però... Allora, il piano giudiziario deve andare per conto suo, eccetera, eccetera. Dal punto di vista politico civile non occorre neanche una condanna. Però Barbacetto, guarda che avere capito che noi non verremo a capo di una ricusazione di Berlusconi per via giudiziaria già non sarebbe poco, anzi mi sembrerebbe molto importante, il che non significa che io sposo una tesi o l'altra, ma intanto questo non mi sembra irrilevante. E per questo la mia domanda che faccio un minuto e mezzo a testa a Zurlo e a Raffaella Calandra. Zurlo, secondo te questo nuovo passaggio avvicina, come sostengono alcuni quotidiani oggi, l'intervento organico sulla giustizia o lo rende ancora di più improbabile da parte del governo? Ma io credo che in qualche modo lo avvicini, ma perché ormai dentro la maggioranza c'è questa idea che bisogna comunque intervenire, bisogna agire, bisogna modificare, bisogna cambiare. Quindi fosse finita in un altro modo, non credo che le cose sarebbero state molto diverse. Voglio aggiungere poi su quello che si diceva prima Barbacetto, che lui diceva è corrotto Mills per il processo Guardia di Finanza, che guarda caso è quello del famoso avviso di garanzia di Napoli, che nel 94 di fatto stiamo parlando di 16 anni fa, ha fatto cadere il governo, che guarda caso si è concluso con la soluzione di Berlusconi. Quindi Berlusconi avrebbe pagato un teste per fargli dire delle cose che già erano nei fatti, perché nei fatti è arrivata la soluzione di Berlusconi, anche qui dopo vari gradi di giudizio, perché in primo grado c'era stata la condanna, c'era stato l'avviso di garanzia che aveva fatto tremare tutta Italia e il mondo, quello in diretta mondiale, io a quello lo sfascio rovescio detto da Di Pietro e tutto il resto. Quanto alla prescrizione, sembra che il reato sia stato commesso ieri mattina, parliamo di fatti avvenuti 10-11 anni fa, cioè di questo stiamo parlando. E quanto a Mills, non è vero che non aveva niente da nascondere, perché col fisco inglese si parlava di milioni di euro, quindi non si può arrivare a una condanna sulla base di un racconto che un tizio fa in una lettera a un commercialista inglese e poi abbiamo visto cambia versione 10 volte o 8 volte. Ci si arriva eventualmente su fatti concreti. Vedremo cosa dirà poi, perché questo dobbiamo aspettare con onestà e con correttezza le motivazioni della Cassazione, vedremo cosa dirà, cosa scriverà rispetto all'eventuale accertamento di responsabilità. Certamente oggi non c'è una condanna e quindi si andrà avanti. Come purtroppo siamo andati avanti da 16 anni, ognuno tirerà da una parte o dall'altra, esatto, questa sentenza, ma io questo voglio dire, se mi permette 10 secondi, è una storia che ormai dura da 16 anni, da 17 anni, che non riguarda Berlusconi. Pensiamo alle sentenze su Andreotti, che sono sentenze definitive, anche sono qua, d'accordo, ognuno le legge come gli anche pare, con cioè, sono double face. Come sono si vede, siamo riusciti a mettere d'accordo Barbacetto e Zurro su una cosa, che a me sembra molto rilevante, la recusazione di Berlusconi come politico con la giustizia, da ambo le parti si riconosce che non ce la si farà mai dopo 20 anni che siamo in questo. Quindi Topolini in ascolto, come si suol dire, pensate alla politica innanzitutto, invece che a dividerci sui procedimenti. Poi i procedimenti vanno avanti, i PM fanno il loro mestiere. Ultima domanda, le 100 pistole a Raffaella Calandra per l'ultimo minuto. Dal suo punto di vista, l'intervento ordinamentale sulla giustizia, più vicino, più lontano o ugualmente improbabile come prima? Ma la maggioranza sembra assolutamente decisa ad andare avanti. Sicuramente domani il difensore del Premier, Nicolò Ghedini, già sappiamo che chiederà una sospensione del processo per Berlusconi in attesa delle motivazioni della Cassazione. Di sicuro ci sono due proposte legislative, quella sul legittimo impedimento e quella sul processo breve, che potrebbero essere strettamente, diciamo, collegate a queste ultime vicende giudiziarie della Premier. Comunque credo che sembra che la maggioranza sia intenzionata ad andare avanti con queste proposte. Bene, vedremo. Io credo che continueremo a parlarne per anni, fino a che Berlusconi sarà in campo. Berlusconi dividerà su questo, e però tutte le volte che lo buttano giù, tutte le volte lui risale su con il consenso e non perché è un dittatore. E su questo c'è molto da riflettere, perché tanti italiani non ci credono a quello che fanno i procuratori. C'è poco da fare e sono liberi di pensarla così, e io difendo il loro diritto come quello dei procuratori di fare i loro mestieri. Bene, appunto, appuntamento a lunedì, grazie in regia a Paolo Corleone, Valerio Rocchetti, in redazione ad Alessandro Marco Tulli. La linea adesso al giornale radio per vedere dall'Afghanistan quali sono le ultime novità dolorose. C'è una vittima italiana. A lunedì.